uno buono, come era H100 o qualcosa del genere. 155. E H155 che sia. Compro quello, non andrà bene uguale, tanto sono pochi metri. Da qua all'antenna avrò 5-6 metri, capito, non di più. Va bene, quello io non ho neanche perdite, non sono andato. Pigliatene 11 metri e sei a posto. Sì, esatto, infatti quello che voglio prendere è quel tanto lì, capito? Perché da Fusaro mi sa che non ne hanno, perché avevamo chiesto e non ne avevano. E già lo prendo là, intanto in 2-3 giorni mi arriva, capito? Adesso aspetto un pochettino e poi si vedrà. Ah, va bene, no, vabbè, aspetta un secondo. No, non sei uscito, c'era la portante ma non ho sentito l'audio. Giulia, cosa fa la prospera va? Sa che il microfono, vero Anto, tu lo senti? No, non sta uscendo. Cos'è? Il microfono deve essere che ha avuto qualche problema. Ora, ecco, adesso va bene. Non è il microfono. Quindi, adesso già sta funzionando. Sì, adesso sei uscito, adesso sì. Prima no, non si sentiva la voce. Comunque Antonè, l'alimentatore ti ho detto, non lo devo procurare, ce l'ho 30 ampere, 32 di picco, sempre sa delta, con la ventola di quelli switching, capito? Già ce l'ho l'alimentatore. Ah vabbè, ok, meglio così. D'accordo. Non c'è problema. Cosa pensate l'idea dell'attacco epidemico a questa cosa? Ma come perché il freddo, capito? Se qualche falsa serratura, bisogna che mi porto a... comunque è caldo la parte di trasmissione è quindi a posto. Se una falsa serratura non l'ho stampato. Adesso bisogna che, vabbè, qua a giocare di fa nulla, si appoggia in culo, adesso comunque funziona bene. Esatto, non tocca nulla, quando tutto funziona bene io lo stesso, non tocco più niente, capito? Adesso l'antenna, gli ho trovato la posizione, grosso e buono, e quindi non la tocco più. Poi per ascoltare mi metterò un antennino sempre esterno, capito? Mi metto due cavi in parallelo e buonanotte, e così lascio sia il ricevitore e il baracchino per parlare. Ecco, per me che io vado a riprendere la macchina, dai. Ok? Bene, va bene, già siamo qua, non ti preoccupare, chiama quando vuoi. Già sono qua, non c'è problema. Adesso mi sta tirando i coglioni questa americana, cazzo a me. Rispondi al telefono, Antonè. Già sono qua, dai. E tanto sto mettendo a posto un po' di attrezzi che avevo messo in giro, già sono sempre in radio, dai. Se per caso non rispondo è perché sto mettendo a posto, ma già riprendo subito. Cazzo io. Fate boh. Fanculo a me, cazzo. Aspetta, però vai. Non c'è un capo altro telefono, cazzo. Allora, mi sto guardando qua. Kenwood TS-140S presenta le seguenti dimensioni: 270 mm di larghezza, 96 di altezza, l'altezza non mi interessa, e 270 di profondità, quindi più o meno è quadrato, 270 per 270 e di altezza 96. Dai, non è esagerato 270, è abbastanza, diciamo, compatto, sì, è leggermente più grande di questo che ho, capito? mediamente più grande, sì, però se insomma 2,70, 26, 27, ho voglia che ci sta qua. Sì, l'alimentatore magari lo sistemo in alto e così, qua adesso ce l'ho dietro la radio l'alimentatore perché c'è lo spazio, quello là è più grande perché 2,70, ah neanche, perché praticamente la larghezza è quanto questo, quindi questo è 2,70, perfetto, quindi dovrebbe starci mezzo su così. Ciao, ci sta, non ti preoccupare, fegato. Fottidini, fai come ti dico io. C'è la caffa pippetta, se passi stasera te la do. Ci manca un bollone, mi sembra, se mi ricordo era 13. Vieni a casa, te la prendi e così almeno fai pezzi del terrazzino, in modo che c'è la distanza per poter installare una bella mini Grand Prix. Sì, esatto. Poi non lo so, se tu ci sei stasera ci posso anche passare, se mi dai un orario. Capito, adesso non so neanche, adesso sono le 4 sono. Magari o lo lasciamo a domani direttamente, Antonè. Domani è lunedì, tanto io non sto lavorando che sono in ferie, capito? Domani è lunedì e così domattina se vuoi verso le 9, così 9:30, se sei sveglia a quell'ora scendi così ti invito la colazione se vuoi. Sì, sicuro se vai sia lunedì, anche perché il bar è aperto oggi, strano, ma non è che oggi è sabato e domani è domenica e dopo domani è lunedì, no? Quanto va bene, perché va bene adesso con questi telefoni cazzo è un casino. No, hai ragione, è che io non sto andando a lavorare, oggi mi sembrava domenica, capito? Invece è un piffero, oggi è sabato e domani è domenica, vabbè, tanto domani se è chiuso il bar lì, chi se ne frega, andiamo al bar a Piazza Lesseni, non sono in macchina tanto. Ci sediamo in macchina e ce ne andiamo da un'altra parte, che se lì è aperto, sotto casa tua mi sa ce ne sono due di bar. Se aperto, ma penso la mattina apra per le colazioni almeno, se non apre ce ne andiamo da un'altra parte e così mi fai vedere questa staffa se magari mi serve. Me ne stava dando anche una Luca oggi, però era di quelle tipo che ci puoi attaccare la parabolica, capito, a L, di quelle che puoi attaccare anche a un altro palo, quindi puoi fare palo palo, però ha la base un po' grande, capito, io ne cercavo uno con la basetta d'attacco più piccolina, capito, anche perché magari metto un'antenna per ascoltare piccolina insieme all'altra e vedo un po' come si comporta. È una di quelle basettelle per parabola, la verità, hai capito, c'ha due gaffe, una sopra e una sotto per poter agganciare all'altra gaffa. Tutto lì, il modello è quello, se ti va bene, anzi ti dovrebbe andare bene, vabbè, nel senso che c'è bulloni, uno da parte, uno dall'altro, uno da parte, uno dall'altra, quindi non fai altro che stringere e agganciare alla, come si chiama, alla ringhiera, hai capito? Poi vabbè, come dai tu, se vuoi venire adesso, vieni adesso, te la prendi e se non vuoi te la prendi, tanto io non ne faccio niente, perché a me non mi serve, a me mi serve solamente la, come si chiama, l'aggancio per, devo comprare quello per le zanche a ringhiera, il discorso è quello lì, hai capito? Per poter agganciare il palo a Harry Potter, quindi in pratica di quella zanca lì, cioè di quell'attacco lì non me ne posso nulla. E ho capito, allora facciamo così, Antonè, se tu stasera ti va bene, facciamo tra un'ora, se ti va bene alle 5, tanto siamo qua in radio. Prima di uscire ti chiamo alla radio, ti dico mica sto uscendo, sto venendo da te. Così ci beviamo una cosa. Va bene, vabbè, voi tu, c'è problema, alle 5 ci vediamo qua sotto. Così ti do quella. La stanza è a posto. Ok, perfetto, dai, allora niente, io mi già sono a posto, oggi ho fatto un sacco di cose, cosettine, ho messo a posto anche giù in garage perché avevo tutto sparpagliato, eccetera. E la cosa, io ho la J-Paul, quello della Smartec, l'antenna, ma è, cazzo, è un mostro quella lì, è 7 metri e 20 mi sa, 7,20 quella Claudio mi ha detto che praticamente se la metto anche a pochi metri dal terreno non ti dà né stazionaria né niente, perché è fatta apposta per ricevere anche messa sul terreno, capito? Infatti è molto alta. Però se non è troppo d'impatto qua, capito? E se si può mettere che non tocca da nessuna parte, capito? Sempre che non mi dicano roba il condominio, capito? Perché quello è un bestione, con quella salgo parecchio anche oltre il tetto, capito? Dal terrazzino, perché io sono al secondo piano ma nella parte bassa, quindi sopra di me c'è solo una mansardina piccola col tetto a spiovente, capito? E quindi già sono oltre adesso con la boomerang che salgo un pochettino. Se dovessi mettere quella, ho fatto bingo, capito? Perché con quella lì sparo parecchio. Già lo so già. Io quando mio fratello era in allora quando è arrivato qui a abitare, ho preso un'antenna di quella canola a pesca, 7 metri, figurati, di colore verde. La bobina era sotto e poi lo stilo arrivava fino a sopra, fino a superare i 15-20 centimetri in più del tetto. Io non avevo attirato la cazzo per mi telefono a questa, si dice cosa è piazzato, e tu l'antenna ha detto per mio fratello, perché? E tu, qual è il problema? Io ho detto no, antistetica, questa cosa verde, non si può piazzare, cosa del genere, ha detto, cazzo, ho cominciato a rompermi le balle, ti ascolta, detto. Si chiama il capo, come mi fa? Dice facciamo, dice, un coso, dice, ci veniamo incontro, dice, la mattina, dice, la scendi e la notte la sali. Allora fa una cosa, gli ho detto, la notte va la bagazza, gli ho detto, e di giorno va la frosci. Va bene, i condomini è ovvio che ci sono sempre i disappuri, a uno non va bene, all'altro va bene, capito? Bisogna sempre trovare un compromesso. Comunque dai, io ho messo questa, non ho chiesto niente, tanto sul mio terrazzino non è molto ingombrante. In effetti ho iniziato piano piano, ho messo un'antenna di macchina e adesso ho messo questa. Poi c'ho anche l'altra, poi ho anche il dipolo, quello SD27 della Sirio, che va 2,5 metri sopra e 2,5 metri sotto, e quello lo posso mettere, quello già ha già il braccio che esce parecchio, capito? Quindi eventualmente posso mettere quello e vedere un po' che resa c'ha, capito? Posso provarlo un giorno. Quello sì. Se lo proveremo. Aspetta un attimino che sta arrivando subito. Va bene, dai, tanto io finisco di mettere a posto questi attrezzi che ho sparpagliati qua nel terrazzino. Ascolta, faccio una cosa, allora alle 5 vengo sotto casa tua, comunque già accesa la radio, prima di uscire ti chiamo verso le 5:05 e ti dico che sto uscendo, capito? Tanto io ci impiego pochi minuti e sono a casa tua. Now I'm 9 months gone, and you know we're talking about a hell of a walk, and I had no place. piaciuta. Cosa? Mi è piaciuta la canzone. Ti è piaciuta? E dove sei, Anto? Sotto casa. Ehi, Santiago 9, qua mi stai arrivando. L'ho sentita altre volte, adesso non mi viene il cantante. Hai con la musica, e anche io già mi piace ascoltare la musica, a volte me la metto a manetta anche in casa, capito? No, se la metto a manetta io a casa è un problema. Qua no, io me la metto, dai, io ho un sistema di ascolto di musica che se la metto al massimo mi mandano i carabinieri, capito, per cui la metto bassa, dai, che la sento a casa, ma non ho mai disturbato nessuno. A me mi mandano direttamente la squadra per fare il campo. C'è lo stesso problema io. Invece nel fratello, visto, nel fratello al primo piano può mettere lo stereo a tutto volume per non rompere male nessuno. Se metto lo stereo neanche a metà, la metà, quello che penso io, il telefonino, immediatamente, siccome i muri sono fatti di gomma, già lo sai, quelli nella mansarda, sono trovati nella 6, quindi a un certo punto si sente tutto. Se lui sta muta, io dico saluto, lui dice, come ci dici? Ehi, Antonio, l'hai sentito in macchina, stava mettendo un po' di musica, per quello stavamo parlando di musica a manetta. Rappa, prega, se la metto io ci sento. Giuro. Già va bene, già va bene. A voglia. Rappa, bianco un attimo che farà prendermi la bombola. E Antonio è andato a prendersi la bombola del gas, evidentemente è finita, e quindi si ripigliendi. E non poteva passare, stamattina con me, la prendeva, lì al monte, mi sembra che ha aperto, prima della una, la prendeva lì e poi se l'ha fatta la beccia per il bambino, la discorso è quello. No, non ne ho comprato stamattina, ci sono andato. Vabbè, ho capito, però c'avevi il bambino, non fa prendere la bombola, cazzo, se ti dovessero fermare, cazzo, sai cosa ti passi con un bambino piccolo, quindi è fatto bene fare una cazzata del genere. Ci vai adesso, tanto è aperto, fino a, anche domenica mi sembra che è aperto, ce n'è uno che apre sabato e domenica, quindi se la prendi la bombola e se la piglia il culo, anche se è fatto 5 euro in più, va a far culo, almeno c'è la bombola. Vabbè, siamo qua, non c'è problema. E adesso, questa settimana che sono ancora in ferie, mi sa che mi levo, io nella scrivania c'ho il computer che è un monitor da 27 pollici, quindi bello grande, e c'ho la stampante, poi c'ho la radio dall'altra parte con l'alimentatore, però sto pensando la stampante di toglierla, siccome tanto è wifi, e se riesco me la voglio collegare dentro dove ho la cabinetta armadio, capito? La metto lì, tanto c'è un sacco di spazio, solo che come il falegname mi ha messo la cabina armadio, dietro c'era una presa lì e quindi me l'ha nascosta, adesso spostare la cabina armadio è un casino, capito? Però più o meno mi ricordo il punto esatto, adesso se mi trovo quello strumentino che mi dice dov'è la presa, io lì faccio prima un furillino piccolino col trapano, poi entro capito, mi faccio il disegno giusto della presa, faccio un foro di precisione quanto la presa e quindi riesco così a riutilizzare quella presa, e così dentro quella cabina armadio mi metto io la stampante lì, tanto quando stampo vado e mi recupero da lì le cose, così mi sposto il computer un po' verso destra, oppure metto proprio la radio tutta verso destra, il computer me lo metto più al centro, così sto anche più comodo, capito? E quindi mi metto la radio a destra e il computer al centro, quindi ho lo spazio per mettere l'alimentatore grande, una radio più grande, capito? E il computer bello al centro, e ho tutto lo spazio che mi serve. E non sei a posto, quindi sei tranquillo. Oh, yeah. Meno male ho una di quelle borse portatrezzi, no? Di quelle piccoline, l'avevo presa da Tecnomat, ci butto tutto lì dentro, infatti lì avevo forbici. L'unica cosa che avevo fascettato il cavo, e siccome ho spostato l'antenna per tararla, quindi le fascette le ho rotte e adesso ce le ho giù in garage, quindi adesso scendo, mi porto su altre due fascette per fissarmi il filo, così non sta a muoversi con il vento, mi fascetto il filo, tanto non la tocco da così l'antenna, adesso ho trovato la posizione, questa qua la lascio così e dovrebbe andare bene, e mi sistemo il filo e ho finito tutto, tanto forbice tutto in quella borsettina, e poi la metto dove c'ho la lavatrice, la metto sopra, capito? E così non devo stare giù a cercare gli attrezzi, so che ce li ho un po' qua e gli altri giù già c'ho di tutto e di più nel garage. Sinaigana, dopo Antonè, ci facciamo un giro, ci beviamo una cosa, se viene a casa ti faccio vedere come ho sistemato, c'ho birra qua, c'ho di tutto, se vogliamo ci facciamo il caffè, capito? E poi già ti riaccompagno pure, No, sono qua, non ti preoccupare, ti aggiungo. Adesso sono le 16 e 13 minuti, adesso faccio un attimo di bianco, scendo giù in garage a portarmi su le fascette, capito? Mi sistemo le fascette e poi già mi faccio risentire in radio, ok? Un 10 minuti ci impiego. D'accordo, fa quello che vuoi, che ho presentato io, mi sto facendo una specie di modifica adesso. Così ci sentiamo fra un po', no? Sto attaccando il 2009. Sì, va bene, da 10 minuti il tempo di scendere giù e salire e poi sono qua di nuovo. D'accordo. Beh, ancora ci sei, Antonè. Avanti. Beh, Anto, dove sei? A casa? Negativo, al chilometro sono. Ancora sei in macchina, segnalone qua. Bene, arrivo. La voglia. Gamba. Ero fuori in terrazzo, stavo mettendo delle fascette per bloccare il filo, capito? Se no il vento lo fa andare da una parte e dall'altra. Quindi adesso me l'ho fascettato bene bene, così non si muove. E per adesso lascio tutto così, ho trovato un po' la quadra e va bene così. Va bene, dai. Ok, io sono arrivato qua e già... Sono via Pascoli, sono. Via Pascoli, sì, a voglia, arrivi bene qua. Infatti quello che non capisco, per dire, per esempio Franco che è in Piazza Sacro Cuore arriva basso basso, però forse lui è un'antenna piccolina. Sicuramente. Ieri l'ho sentito, poi un attimo è passato in banda laterale, lì lo sentivo bene invece, capito? Ho detto cavolo, qua si sente bene, invece in AM lo sentivo a malapena. La posizione per lui non è messo bene. Probabilmente è una zona negativa, perché comunque io al monte, Gianni lo stesso che in fondo verso via Baldetta, quella zona là, gli arrivo bene a, a Gianni, gli arrivo 9+20, qua a Gianni mi arriva a fondo scala anche, capito? Più o meno arrivo sino a via l'Italia con Luca, arrivo da Claudio su nella strada di Osilo, e Claudio è anche abbastanza su, più o meno tutta la città la riesco a coprire, capito? L'altro giorno stava parlando Daniele da Itini, lo sentivo pure, ma lui non riusciva a sentirmi, capito? Però va bene, capito? Prima non sentivo nulla di fuori. Di Sorso non lo so, Franco non l'ho più sentito, perché Franco dall'altra casa lo sentivo sempre, e invece si sente Sampeio ogni tanto, però lui non riusciva a tirarmi fuori, e neanche a Claudio non lo sente, quindi penso sia un problema d'antenna che ha lui, capito? Papà. Ma sempre è molto male, cioè, avere bisogno di gestione, appunto. Certo, non è un'antenna, se non mi prende a me si deve rampare tutto. Perché io so anche cosa, cioè devi credermi per forza a me, capito? Anche a basso io devo arrivare. E adesso per esempio questi ultimi passaggi che hai fatto eri a fondo scala proprio, ti sento bene. Papà, via Lomberto sono. Ah, quindi ti stai avvicinando, ecco perché. Via Lomberto da qua è in linea d'aria, è vicino. Papà. Comunque è molto bella l'antenna, cioè ci sono in posti dove non ci sono ma macchinate cose strane, non come si dice, mi sembra che non guarda molto basso, capito? È meglio così. Meglio, vuol dire che già è buona. La frusta nera stai usando adesso, così? No, ma adesso vorrebbe altro, perché mi vuole fare il certo. Il problema è questo, la cosa bella è questa, che non tocca. Se si insegnava, non sente posizioni, non abbiamo visto i sono più degli altri del certo. Dalla grande. Quella c'ha l'attacco con la vite a farfalla per caso, Antu? Cappa. E quindi anche una basetta piccola ci va lì, capito? Chissà che io ne ho una di quelle lì a frusta, così, che sono caricate in gomma nera, dovrei averne giù in garage una, e bisogna che la provi anche io in macchina. Belle sono. Il discorso è questo, è la sostanza. Ehi, tu esce bene, dai, ti sento dappertutto io, capito? Adesso stai arrivando bene, perché sei in questa zona e fondo scala mi stai arrivando. Cappa, beh, non arrivo io, ti rampo tutto. Bene, l'impianto che hai fatto in macchina è ottimo, va benissimo, ti sento in tutta la città, ovunque tu ti sposti io ti sento, e quello già è buono, vuol dire che anche come ho messo io l'antenna, più o meno dai, di più non potevo fare adesso, per adesso la lascio così, già sto trasmettendo e ricevendo tranquillamente, quindi no, non mi posso lamentare. Il piatto mio ha fatto bene. Eppure la voglio vedere questa antenna, cazzo, sotto la tua. Dimmi, se sei da queste parti sali, se vuoi salire ti bevi una cosa, solo che alle 5 devo andare a casa di Antonello, se mi risponde adesso alla radio, vediamo se c'è. Sì, sono qua, sono tutto vecchio sono. Oh, iaia. Guarda, sono questa. Dove sei adesso, Antu? Boh, perché? Sempre segnale forte. Prova a indovinare. Magari sì, dalle parti di casa mia. No, tanto no, non rimango perché ma poi ci sono vedere un attimino, poi me ne vado. Capito? Perché sono curioso. Perché più in là ne voglio prendere una di quelle. Dimmi tanto qua, se passi da queste parti basta che già lo sai dove abito, guarda in alto al secondo piano e la vedi proprio nell'angolo del terrazzo l'ho messa, capito? Devo preoccupare. Ah, adesso lo vediamo. Se passi in zona, capito, te la baidi, come si dice a Sassari. Perché se mi piace me la tengo come antenna distorta, perché io ce l'ho a lei, quella della lei, capito? Sì, sì, ho capito, Antu. Però questa è dell'assirio, ma facile da tarare, capito? Se tu rispetti più o meno quelle cose lì, capito, funziona bene, capito? E l'ho tarata facilmente, capito? Non mi ha dato problemi. Che caspita, Carlo. Dai, no, che muore un paletto, ti sei sentito la capituria. Hai visto, ho attaccato un palo alla ringhiera da 2 metri e niente, già ti sto vedendo, ti sei parcheggiato. E più o meno è come quella che ho io di antenna, semplice, semplice e buona resa. Aiù, se sali, parcheggiati lì, ti bevi una cosa e poi te ne vai. Non posso perché sono gente, capito? Ah, va bene, dai, al prossimo giro allora, va bene Antu. Sì, ho visto la tua antenna, capito? Ho visto la tua antenna e io ne ho una simile a quella, molto molto simile, caricata, c'ha lo stub per la taratura in alto, capito? E poi ne ho anche una senza stub, ne ho 2 di quelle a frusta così. Carlo, un po' di palo che stai uscendo fuori, aiuto, qua ti sei scendi fuori, ti sei scendi. Ha ragione Claudio, qua ti puoi mettere anche la cipolla tranquillamente. Un po' di palo stai uscendo fuori, alla grande. Sì, sì, anzi il palo è messo all'interno del terrazzo. Se lo metto all'esterno esce ancora di più, capito? Però la J-Pole è 7,20 m, pensa tu, sale anche sul tetto, capito? Molto sopra il tetto sale. E qua quando si mette il vento tirami il maestrale. Sì, sì, sì. E capita, però sei già pura tu. Ui, sei già pura. Se basta che ti metti delle sacche appena lunghe, così. Anche questa mi. Anche questa qua, metti un palo cazzo da. 6 metri, certo se si scendi fuori, te appoggio. Eh sì, a voglia, così sono uscito proprio al di fuori e non mi crea problemi, non mi hanno detto niente, io tanto nel mio terrazzo e chi se ne frega. Ma praticamente guarda, c'è la ringhiera che resiste un bel forte, tu metti delle tappe lunghe e ci devi mettere solo. Le tappe lunghe e la tiri fuori, se la tiri fuori questa è già pura, se è andata la capituria, no, non hai problemi, in quell'angolo lì, in corrispondenza del tuo angolo, cazzo ma ti sto saturando. No, no, già stai uscendo bene Anto, anche se sei vicino, stai uscendo bene, comprensibilissimo. Ti sto buzzotto. Appunto, e la radio te l'ho detto, vuol dire che sta funzionando tutto bene. Sì, la prendi, ti metti 2 cose, tracce e se ti senti fuori. E sei tranquillo, tu no, non hai problemi. Adesso scendo un attimino, me la guardo meglio. E infatti Antonello mi deve dare una staffa, ti ha detto così se ti vuoi mettere un'altra antenna su quel palo magari lo puoi fare eccetera, però la voglio vedere com'è, capito? Infatti alle 5 l'appuntamento con lui, salgo su da lui e così vediamo com'è questa staffa. E la staffa è pezza, già lo sai, lunga, quindi non c'è problema. Però credo, l'altra volta quando siamo venuti, quando sono venuto a te, si serve una staffa pipetta e sei a posto. Adesso Antone, mi sa che scendo, vengo, prendo la macchina e vengo a prenderti. Prendi questa staffa e ti fai trovare giù, io tra 5 minuti sono sotto casa tua, ok? Cappa, cappa. Va bene. Ah, no, tu sei a posto, sì, capolo. Non sapeva come dire, raga. E Anton, è meglio di così non potevo fare. E per adesso va bene, poi se riesco a salire sul tetto, vedo un po' se si può mettere qualcosa sul tetto, però lo lascio alla primavera estate, capito? Che la gente è più disponibile, poi d'estate crei meno problemi per il freddo, eccetera. E vedo un po', chiederò se è possibile mettere un'antenna sul tetto, così la levo dal terrazzo, se me la fanno mettere, se no metto, adesso che ho provato questa, la provo un pochettino e poi ho altre due alternative, o la J-Pole oppure il dipolo SD27 che è un pochettino più grande di questo, capito? E anche quella c'ha un'ottima resa. Una delle due, poi io avevo pensato pure questa, non è male, era l'idea. Vediamo un po', vabbè, Anto, io adesso esco e vado a prendere Antonello, capito, che mi fa vedere questa staffa e così mi metto un'antenna anche per il radioascolto. E già, fai. La risentiamo, dai, a più tardi. Ciao. Quello fine che usavo in questo LMS 200, ci ho messo quello grosso e va molto meglio, la verità. Mi senti meglio? Sì. Non mi dire queste cose, grosso, mamma mia. Ma grosso non ho fatto un pisello, non ho fatto grosso normale, chiaro, quello diciamo prima da fine, quindi non è che andava meglio o peggio, ma comunque sembra che stiano meglio. Che è grosso quanto il pisello. Beh, se li metti il cavo fine, secondo te l'imitazione, secondo quando parli se ne va tutto, già lo sai. Adesso invece è perfetto, adesso ciuccia perché assorbe, sembra che vada meglio. Cos'è un amplificatore, cos'è? Ah, non l'ho messo 200 questo. Capito. Aspetta un attimo, chi cazzo è questo? Già lo sai chi è. Parli col muro. Ah, è arrivato. Solo C2 mi ha detto. Aspetta che sto scendendo, sono a casa sua. Già lo sai. Ah, fate in fretta. Già che 5 minuti sono passati, quindi figurati in giù. Vabbè, ci sentiamo fra 5 minuti, là, ok? Ok. Bacia le mani, signor giudice, bacia le mani. Buonasera Gianni e buonasera a tutti gli ascoltoni, Luca da questa parte. Oh Zampei! E un po' di amici da stasera vi ho portato, nella prima comunione fatta la lista di pantaloni, la messa in piega. E Gesù dai basticini fatta le nana traienti. Dai mangiando le mascheroni, dai cagando le pantaloni. Tru. Qua Sparviero, chiama Reinero, qua Sparviero chiama Rembriero, andare, corre boys. Di Sparviero ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Se sento lontano l'amico, sono lontano, corre boys, c'è il corre boys. Prova di rigonfi, mettiti le cuffie. Sparviero, qua Claudio Sparviero, mettiti le cuffie. Affermativo, qua Golf Indian. Alfa, November India. Te chiedo Golfo della Ginara, cambio. Andiamo. Muchas gracias. Hola, amigo. Blecco. Cosa vai, Gianni? Cosa ti fate male, Gianni Sampi? Cosa ti fate male? Non ti sento basso. Aumenta il volume, chiama di l'antenna. Negativo. Cambiati l'antenna. Ciao Claudio. Attacca potenza. Ciao, buonasera. Scusa prima. A me mi arriva 5 e non intendi nulla. L'antenna rete arriva lì. Io non lo sento perché ho lo squelcio, aspetta che lo abbasso a vedere se lo sento. Sampi, mi senti? Sì, amigato Sampi. Ciao Manuele, sento Manuele e Carlo che c'ha un'antennina piccolina di macchina e lui mi sente e io devo l'antenna blanda, non intendi. Ciao Carlo, sentite comunque, riprendete pure. Ti ho detto che sono Claudio Sparviero, senti, Claudio Sparviero, capito mi hai? Ti sento molto basso. E poi di rigonfi da giurito, un foglio di giornale sotto i beni. Ciao Manuel. Cazzo non ti intendi, grazie, c'è stato di meno con la bomba, vogliamo durazione, non ti intendi. Ma che è buzzo? 2009, cosa è? Allora, ti ho detto che non sono Danilo, sono Sparviero. Hai compreso l'italiano, ma te li scrivo. A non dire nulla di quello che sei tu, mamma mia, tu sei mio fidanzato, te lo sai, mamma mia. Allora, andiamo. Allora, Carlo. Mi ascolti, amore mio, mi ascolti, lasciamo perdere quello lì, quello maniaco è mio, non ti lascio perdere. Io lascio perdere, non ti preoccupare. Carlo. Antonello è qua con me, capito? Ci stavamo bevendo due birre, Claudio. Sì, lo farò ubriacare, perché poi quello ci ubriaca e lui è ancora più cattivo. No, già è tranquillo. Adesso ho sentito, ho detto, esci a vedere chi c'è. Vai, cuocomo, e vai. Ma come si... Manuele, mi senti? Cambio. No, non lo senti a Carlo. Manuele. Sì, lo sento, sì, anche ho qua. Non lo senti a Carlo? Sì, che lo sento. Ah, e tu non lo senti a Manuele a Carlo? Lo sento basso, capito? Molto basso. Vabbè, ma se tu lo senti basso, siete tutti e due con l'antennino. Con l'antenne piccole, lo fa anche bene, non c'è problema. Ma lì non intendi proprio nulla. Comunque, Emanuele, buonasera, se mi senti, da questa Carlo in compagnia di Antonello, bevendoci due birrette e con due patatine. Ciao Carlo, no, già ti sento, adesso ti sento benissimo. Ma in che zona sei adesso, Carlo? In che zona sei, ti ha chiesto, e a Lume Sole lui abita o Manuele? No, lo sento bene, okay, lo sento benissimo. Ma l'altro dov'è che modula, Sampi? Allora, Blecco. Ocla, ma è Ginko. Emanuele Ginko, è anche me. Emanuele Ginko. Emanuele Ginko. Perché lo sento un sai quanto lo sento basso, ma veramente basso la verità di qua. Vabbè, adesso dirò la staffa, quella AL, che potete installare nelle, a casa. Scusamelo, siete qualcuno in più. Ci può piazza un American Free, quello che è. Hai capito? Buonasera. Buonasera a te Gianni. Buonasera doppio room. Oh Gianni, ho detto a Sapri che sta sovrabbonando, se ne dà 5 minuti, che non intende a nessuno. Se gli ho detto per favore, che mi sto già iniziando a incazzare. E te, ma Paolo Bononi si vede alla televisione. Sapri, sta sovrabbonando a tutti, ma non sente a nessuno. Zampe io non lo sento proprio basso ma incomprensibile. Dico già, devi riprendere quando ti lancio il microfono, devi venire a Roma, ok? Capito Zampe cosa ti ha detto Claudio? Di riprendere quando ti rilanciano, di non sovramodulare, perché tu certe persone non le senti. Caffa Roger, allora ascolta e basta, perché tanto se no è inutile, ne c'è un casino. No, non c'è bisogno, secondo me passare il microfono riprendi, senza parlarci sopra, perché molte persone tu magari non le senti ci parli sopra, capito? Stava sovrabbondando a Ginko, non ho sentito quello che mi ha detto Ginko. Ma noi cos'è che hai detto? Ha detto che lo sento bene a Carlo, lo sento benissimo. Carlo già arriva, anche se c'è l'antenna della pigra già arriva, ma io sento anche a te. Quindi non è un problema mio, si sempre è sciolto, quello che ti dico. Lo sente Gianni, perché ce l'ha di fronte, qua arriva lo stesso, ma almeno mi sente. E quindi quando rilancio il microfono parla, senza cazzo bravolendi, se no mi si alterano i pibilisti. Ciao Gianni, buonasera. Va. Buonasera Claudio, buonasera a tutti gli altri amici, dai. Dai, finito adesso di pulire la casa, mi sono fatto una bella doccia, adesso mi rilascio 5 minuti prima di andare perché devo uscire stanotte. Pappa di me, c'è un freddo fuori, mi ho acceso il riscaldamento poco fa, ma c'è un freddo fuori di nuovo. No, ma andiamo in un locale, capito, quindi non ce n'è freddo, cioè si sta bene. Vengono a prendermi, andiamo in un locale, quindi non è più freddo. Dopo mi scaldo cantando. Bene, bene, fai bene. No, domani io sono fuori, oggi sono a casa. Domani, tanto. Non cambia niente. Oggi a casa. Al calduccio, avanti Carlo, riprendi. Io riprendo e vi saluto perché tra un po' devo uscire, così riaccompagno Antonello, siamo qua circa dalle 5, sempre mangiando e bevendo e chiacchierando. E niente, dai, nel caso poi se rientro, se ci siete ancora, già mi faccio risentire, tanto qua lascio tutto acceso. E continuate pure, un caro saluto a tutti e ci sentiamo più tardi. Va bene, occhio al prossimo. E già facciamo il giro largo. Ci non intendo di prendere da canto di vita. Vedo io, non ti preoccupare, c'ho la patente, a macco. La patente di mancanti. Avanti, là. Patente di Gicino, Antonello. Va bene, ho bevuto, ho Riccardo. Ho preso il caffè anche stamattina con Carlo e Luca. Non passo la sedia, poi Antonello già non beve quando è fuori. Già è tranquillo, va bene. Se lo vuoi rilanciare a San Pietro, rilancialo tu intanto. Ormai non mi sente, Carlo non lo sente, ma vale, non lo sente, perciò riprendi tu e farlo fa vedere, si può far vedere, altro era Bozzi. Avanti San Pietro! Ehi Agaffa, allora buon pomeriggio a tutti, com'è? Buonasera a me. Ciao Tony. Dai, diciamo che va avanti, San P. C'è entrato Torino, vediamo un po' se l'ascolti. Avanti Torino. Sì, ci ha messo con questa maragana, ha messo Sabbia Ducci. ciao Sapir, ciao Claudio, ciao Gianni e ciao Compuzzi, loro so che c'è altro, se ne tenga salutati. Sapir, mi senti? Scaffaro, genere affermativo, forte e chiaro. Meno male che mi sente forte e chiaro. Andà bene Mida, che tu arrivi bene qua, dai. Avanti Claudio. Ciao Tony, buonasera, ben ascoltato. E anche lui arriva bene qua. Sta solo di fare antenna sorda, quindi non intendi. Va bene, dai, visto che è tratto Tonino, lo già ti lascio un attimo con lui, vado a controllarmi la cucina. Riprendi già. Cappa cappa, va bene, Tonino riprendi. Che fai stasera? Ma io mi sono fatto già la cena, guarda, una bella pasta e fagioli con una patata attaccata a tappette, questi piccolini quasi ossia, lui si è sciolta e ha fatto un bel brodo cremoso, quello che piace a me. Quindi ho messo di tanini, fagioli borlucci, e andava bene, l'ho messo a bagno da ieri, fate conto. E niente, che si dice nulla, cioè stamattina ho lavorato e quindi pomeriggio mi sono fatto il pisolino. E niente, e poi mi sono preparato la mia pasta e fagioli, veloci, che da giocare. Avanti. Cava, cava. Io i fagioli ce li ho messi in freezer, li ho tutti quanti sgranati. E li ho messi in freezer. E proprio sono borlucci. Adesso quando mi viene in mezzo ti rimango la moglie. E io tempo fa ho fatto un bel brodo di pollo, guarda, ho fatto di tutto, pollo, cipolle, sedano, carote, di tutto, è uscito un bel brodo, siccome ne faccio un pentolone, il brodo poi lo faccio quando si è raffreddato a congelare in un recipiente ermetico, quindi un altro giorno quando avevo voglia un bel brodo mi ho fatto scongelare quello che avevo congelato e è uscito il signor brodo. Ma non ci butta niente già, oggi non si butta niente. Io faccio anche la minestrina dopo, col brodo del pollo, faccio la minestrina. La cappa anch'io, perché lo faccio io, per quello tipo. Ehi, ma poco fa stavo ascoltando come avevo acceso prima, però ero in cucina, stavo terminando. E sono andato di pomponio della patente, la patente del peroncino c'ha lui. Eia, di bel vittore. E allora Sappi, che si dice con le zone? No, che sera un po' di freddo, umidità e vento a tutto pugliato. Non ci credi, ui. Non posso immaginare. Anche a te Pomponi, a quelle zone c'è un po' di vento girato, vero Antone? No, sono in macchina con Carlo, lo sta accompagnando a casa. Ah, ho capito, pensavo che... Sì, ho sentito a casa di sfuggita pure... Guarda bene, Meda, vedi, e allora se ci da con Carlo, almeno si è bevuto un peroncino anche lui, perché a Torino va solo quando c'è il peroncino, se no non si esce. Ah, a casa di Carlo, sono tutta la sera che stanno mangiando e bevendo, ha detto Carlo. Guarda bene, Meda, e vabbè. Noia, e niente Gianni, io mi arrendo. Infatti domani trovo il padrone, mi sono rotto veramente le palle. Penso vado a chiudere il centralino, non chiude perché la scatola di incarto del centralino è storta. Troppo dentro, non mi interessa che è troppo dentro, ma mette la dritta. È storta nel senso che metto le viti più lunghe, però cioè, no, deve essere giusta, perfetta, perché automaticamente i moduli che metti, sapete differenziare, vedete tipica, eccetera, eccetera, rimangono troppo dentro e non va bene, il centralino va con un picchio, cioè, deve uscire un po' fuori, perché c'è proprio l'incasso, e poi c'è l'usata. Niente, ma fate cazzare, io domani devo dire che è tutto mio, rompo tutto e poi glielo fai giustare da loro, perché l'ho fatto casino, o sennò io non te lo continuo più, e quindi... E neanche non c'è le scale nel completo, perché se mi fai casino la modena fa culo, ma... che cavolo, devo mettere il temporizzatore e devo fare casino. Oggi stamattina mi sono fatto la traccia anche, perché ho messo il campanello attaccato alla porta, che ci va con il telaio, ci va, non ho capito, esterno. E ti vuoi coprire il telaio, ecco, il campanello, ma stiamo scherzando. No. Adesso lui mi prende un muratore che è un muratore ma con solo del Bangladesh, praticamente. E lo comprende un tubo, anche io. Sai che devi fare quella calcio? Metti un centimetro la scatola più in fuori. No, udava, il dritto. E poi praticamente vuole il placcaggio e sei troppo dritto. Già mi sono arrangiato per tutte le prese, guarda, per carità. A me lavorare alla casa di cane poco mi piace. Mi dispiace, ma io su queste cose sono troppo serio. E quindi lui non la vuole cambiare, centralino? il centralino lui l'ha comprato poco, giustamente. Io l'amburatore ti ascolta, questo me lo metti qua, noi ci metto bello dritto perfetto, l'altra scatola di vazione va sotto il centralino almeno 2-3 cm più in giù, perché tutto il ballo un po' di fili va là collegati, capito? E c'è anche la borsettiera, l'ultima va, ha levato un casino, tutto torto, sia lo scatolame che va incementato storto nel centralino e più la scatola di vazione attaccata e storta anche lì. No, non va bene già. C'è che storta anche la bus. Cosa? Che deve essere il dolce burro a posto. Ma lui quel ragazzo ha detto, ah, io non l'ho mai fatto, allora dico al tuo operatore, che è così bravo, così bravo, mi ha detto pure, quello che stai facendo tu lo sa fare anche lui, cioè l'elettricista, e caso strano chissà perché quello ha chiamato a me a fare a lui, un motivo mi sarà. E magari non si fida, c'è molta gente improvvisata, Tony, siccome c'è poco lavoro, si improvvisano e fanno le cose da minna affitto, non le sanno fare, le fanno come le sanno fare. Sono d'accordo anche del padrone, perché il padrone del Bangladesh, il vetro, io in casa mia non faccio entrare italiani, ma volatori, ma non vale, perché dice non mi fido, io mi fido solo del Bangladesh, oppure che conosco io, sì, prendo tantaino al giorno e lo faccio un piffero, ma buffonetti, zio matti, nati, io non posso stare presso a loro a dire fai questo, però se mi ha fatto, ti sto dicendo, guarda, l'ho fatto con la bomboletta spray, fai questo scalda qua che devo mettere una scatoletta 503 che è piccola che ci va dentro intorno a una presa e mi ha fatto un buco 50x50, c'ho anche le foto, ma stiamo scherzando, tutti così mi ha fatti, tutto a cui è pieno di cemento, meglio, ma dove si? Ti ha fatto le voraggi. Io sono pignolo, però già io non so che cosa, io sono serio e voglio le cose che sono fatte bene, se no c'è la mia luce. Io non dovrei continuare, gli ho toccato tutte le prese, è rimasto speso il bagno e ho detto a quel ragazzo stamattina, mi raccomando fammi la traccia, metti il tubo collegato sopra che ci va lo scalda al bagno, se l'ho presa non vedevo, non prima non è come avete fatto voi, avete fatto il casino. Chissà se mi ha capito, sì. Cazzo, stamattina come ho fatto lì il coso, ho scalzato, ho il cappello per mi spostare quel coso del campanello, è uscito poi fuori, gli ho anche cementato. Bravo, bravo, è bravo un cazzo, lui ha fatto un casino, no, che manca del tempo. Tonino è entrato, sì. Ma Tonino, ciao, non è entrato. Sapevi prima? Tutto magna magna, in Italia è tutto tanto ladri e puttane. Da voi non ne so, voi lo reso, riduttori la ne voglio dire, vedate la minoretta, che impara il governo. Del resto va bene così. Cambio. Gianni riprendi. Appunto sì. Non sa quant'ora lo governo, ma Torino è cattato perché hanno invitato da Bangladesh, ha fatto un post per fare un fosso 50x50, ha fatto una voragine. No, il fosso andava già, 12x8 per 9 centimetri, cazzo mi ha fatto 50x50, e cosa ti rompo di dritto? E sacca la pezzi volatile, non hai compreso, un po' di impatto, da